ancora, e stavolta la seconda puntata della nuova stagione di Giochi sul nostro podcast. Allora, ci siamo lasciati pochi giorni fa con la prima puntata, abbiamo lasciato un po' a metà di un discorso sulle anteprime di Essen. Spero che, se siete qua a sentirci, vuol dire che avete piacere di sentire ancora come portiamo avanti questo discorso. Siamo ancora allo stesso gruppo dell'altra volta, cioè Fabio. Scusa, Chris, ma cioè, prima mi chiedi quando è che devo parlare e poi quando... Chris era il secondo, ricordo che avevamo... Prima mi hai detto che ero il secondo io, cioè intendevo dopo Teo. Cioè, scusa, siamo in tre, va bene, ok. Allora, saluto io, ciao a tutti, sono Teo. E ciao a tutti, sono Christian. Va bene, ok. Allora, come l'ho detto già l'altra volta, siamo così, cioè ci stiamo scaldando. Poi in realtà queste qua sono tutte gag montate, eh? Le abbiamo preparate queste gag qua, quindi stiamo scherzando. È un finto sbagliato. Ci credono tutti. Vai, ripartiamo. Prima cosa, Chris, ok? Così a bruciapelo. Eravamo rimasti un pochino scambiandoci la palla virtuale uno con l'altro, parlando dei titoli che aspettiamo maggiormente. Allora, rifacciamo lo spazio pubblicitario misericordioso dicendo che un tuo gioco uscirà. Basta che diventi imbarazzante. Vabbè, no, ma se vuoi ne potevamo anche parlare, però poi ti vergogni. Comunque esce questo Gears. No, non mi vergogno, vedete poi voi, nel senso... Va bene, poi tanto lo proveremo. E se non ti offendi, io pensavo di scrivere una recensione a prescindere negativa. Va bene, certo, mi sembra più che giusto e morigerata come scelta. No, perché tanto c'è, sai, una volta si diceva: l'importante non è tanto parlarne bene o male, parte che se ne parli di una cosa. No, non è d'accordo, vedo che questo non mi hai silenzio. convinto. No, va bene. Dai, dici pure, un titolo che aspetti particolarmente, di cui non hai parlato l'altra volta. Particolarmente sempre relativo, in realtà mi incuriosisce molto Dale of Merchants, Oh, finlandese. perché noi dobbiamo prendere le cose lontane, non quelle comode, Esatto. che ha Oh, una che grafica molto accattivante, una meccanica, alcune meccaniche dentro che mi incuriosiscono, e quello sarei curioso quantomeno di provarlo. sta. Sì. Non so se poi me lo porterò a casa ed è un titolo. E poi invece, per dire qualcos'altro di molto molto leggero, c'è quel Kingdomino, che a me piace tantissimo, l'idea del piazzamento delle tesserine, quei due tipi di terreno, eccetera, che in realtà quello potrei anche prendermelo, se è un prezzo ragionevole. Non so mai bene i prezzi con cui escono ed è Sai assolutamente che mi casuale. sa che lo fa, mi sembra che lo localizzi Uplay in italiano. Ho questa vaga idea. Questo King Domino ne parlo un secondo, visto che l'hai accennato. È di Catala, è un gioco che presenta semplicemente delle tessere, come vi dice il nome, delle tessere come quelle del Domino, composte da un rettangolo che è formato da due quadratini. I due quadratini possono avere vario colore, barra, come dire, sfondo, tipo montagna, terreni e così via, e nel metterli giù ognuno si costruisce il proprio regno. Poi, chiaro, ci sono delle regole che sono abbastanza semplici, che sovrintendono al calcolo dei punti. Sembra abbastanza facile, molto interessante effettivamente. Capisco perché, e anch'io ce l'ho nell'elenchino di quelli da tenere sott'occhio. Teo, invece, cosa ci dici? Ma guarda, sempre per tenere la linea dei giochi che sicuramente voi non avreste Va messo bene. nell'elenco, no, ma almeno nel senso, io mi sono concentrato ovviamente molto di più sui giochi più di target family, quindi non propriamente party game, quelli ce ne sono uno sproposito ad Essen, ma quelli che hanno la partita sull'oretta, che magari riescono a prendere un po' di numero di giocatori. Butto sul tavolo Crazy Cards, Sì, ok. Portal. gioco della Portal Games, esatto. In sostanza, si devono pilotare dei carrettini a coppie, quindi i giocatori in contemporanea dovranno giocare le proprie carte movimento, attacco, curva, accelerare, frenare, eccetera. Solo che praticamente cioè due giocatori pilotano lo stesso carrettino, non ci si può mettere d'accordo prima su quello che c'è da fare, e quindi il carrettino avrà delle traiettorie tutte sue, sparerà attacchi un po' sbagliati. Diciamo, la caoticità la fa da padrone. La grafica è molto divertente, ci sono dei nani, degli elfi, degli orchi, insomma, un po' le Wacky Races, se Il vogliamo. principio di fondo mi ricorda Goblin Sinch o qualcosa del genere, di qualche anno fa, dove anche lì c'erano delle squadre da due, non coordinate. Mi sfugge, va bene, ok, lo butto lì così come perla. non, cioè, allora, ho in mente Goblin Sing, ma non so quanto sia simile. In realtà, cioè, bisogna proprio vedere come ci si muove sul tabellone, perché c'è un tabellone su cui muoversi. Dipende molto da quanto poi puoi gestire quell'interazione lì o meno, ecco. Vabbè, allora, visto che stiamo parlando solo di giochi meno pesanti, ora a questo punto mi tocca a me il ruolo di parlare di due cinghiali, no? Vai. Allora, il primo atteso, è finché non è arrivato Lorenzo il Magnifico che ha preso la palma di più atteso, il gioco più atteso per me era Great Western Trail, che rimane comunque uno dei tre più attesi. Perché? Perché è un gioco di Pfister. Pfister è un autore che avevo scoperto qualche anno fa per il suo Under the Caribic, che è un giochino che avevo comprato a 7 euro, gioco di carte che poi è stato rieditato come Port Royal. Da lì è esploso. In questo momento credo che Pfister sia l'autore del momento, perché ha avuto lo spiel con Broom Service, che pure non mi è piaciuto, però l'ha preso. C'ha quel Oh My Goods che sta spopolando. Ha cominciato anche l'espansione per essere. Bravo, che è un gioco. Oh My Goods è un ottimo. Praticamente un gioco da tavolo, un gioco gestionale da tavolo condensato in un gioco di carte. E poi ha fatto Mombasa, che ancora non deve essere entrato nella nostra top 100. Però sta andando su abbastanza piano piano negli ultimi tempi, ci stiamo giocando ed effettivamente anche nella considerazione del nostro gruppo sta salendo. Quindi sono quasi convinto che a breve, cioè nella prossima edizione, Mombasa salirà nella top 100. Quindi questo Great Western Trail è un gioco dello stesso peso specifico dell'altro, di Mombasa. Ho visto le regole, è interessante perché praticamente c'è un tabellone sul quale vengono piazzate una serie di locazioni e poi i giocatori si muovono sul percorso attraversando le varie locazioni. Quindi il concetto è quello che tu ti devi costruire un percorso di tue locazioni da attraversare ogni volta. In sostanza è una specie di rondella multipla da attraversare, cioè tante idee carine mescolate insieme, tipico ormai dei pochi giochi di Pfister. E effettivamente credo che sarà un buon titolo. Pfister poi con Mombasa ha dato prova, insomma, di essere bravino a fare anche cinghialetti, quindi lo attendo molto. Un altro gioco pesante che attendo è The Colonists, o The Colonisten, che è della Lookout, che promette di essere abbastanza solido, e anche qui abbiamo un tabellone modulare, dove ci sono tessere esagonali e i giocatori praticamente muovono i loro pedoni su questo tabellone facendo le azioni relative alla casa da dove arrivano. Il tabellone poi man mano si costruisce, quindi anche lì ci sono diverse cosette e sembra essere di peso specifico consistente. Poi abbiamo l'oracolo di Delphi di Feld, a questo punto mi basta dire che è un Feld. E basta, cioè non devo dire altro. È il più Feld dei Feld, l'oracolo di Delphi, perché se già con i vari Burgundi e Trajan aveva detto si possono fare tot mila strade per fare punti, qua ha esagerato, cioè si fa forse in 12 modi diversi, si progredisce, quindi... Guarda, nei giorni scorsi nelle ultime settimane stiamo facendo un po' di ripassi e abbiamo fatto Bora Bora e Bruges, Spikerstad, ci stiamo preparando, no? E abbiamo visto che comunque Feld ha vari livelli, quindi per esempio quest'anno esce con Jorvik, che è una reimplementazione di Spikerstad, quindi siamo a un livello abbastanza base, mi sembra, se non erro, che anche questo lo faccia la Uplay.it in italiano, Jorvik, e poi con Delphi invece dovrebbe essere un livello un po' più complesso, cioè siamo proprio a livelli di Bora Bora, Trajan, un pochino più i suoi, ecco, come dire. Quindi anche questo è un bel cinghialotto che aspettiamo. Altri cinghiali che vedo nelle prime posizioni delle liste, come dire, di gradimento, c'è Key to the City, che però l'unica cosa che è a sua volta una reimplementazione di Key Power. E poi abbiamo Guilds of London, che è un gioco di maggioranze, che è un po' che doveva uscire, e inoltre abbiamo anche Sight, o Shite, a seconda di come lo vogliamo chiamare. L'unica cosa è che Shite è un Kickstarter, è già in giro da un po', e quindi il suo hype è andato scendendo. Qualcuno di voi ne ha saputo qualcosa? Di Shite? Sì. Dici? Ma guarda, io ci ho fatto una cioè nel vlog del mese scorso, quello di agosto, insomma, ho voluto fare la versione extended per parlare di Scythe, ci ho fatto tipo 6 minuti, perché è un gioco su cui c'è molto da dire. In sostanza è un gioco ben fatto, sicuramente ben fatto, che guadagna tanti punti hype anche per i materiali che presenta, perché davvero tra miniature, plancia, poi ogni carta ha un'immagine diversa dall'altra. Allo stesso tempo, diciamo che sono quegli ibridi tra il German e l'American che un pelo, secondo me, scontentano entrambi. Cioè, se vogliamo, il paragone che mi viene di più è con Terra Mistica, dal punto di vista della selezione azioni, dal punto di vista della libertà. Qua siamo ancora più liberi di Terra Mistica di giocare. E devo dire che, nonostante ci voglia quasi un'ora di spiegazione, in un'ora, in quattro giocatori, tutti alla prima partita, abbiamo chiuso. Quindi comunque poi si sviluppa molto agevolmente. Appunto, è un genere un po' particolare, quindi ti dà tantissima libertà. Il mio commento finale però è che è una libertà fittizia, perché è vero che puoi fare un po' tutto, ma in realtà per finire la partita con un punteggio decente devi fare tutto. E quindi in realtà non è che sei così libero, devi fare tutto quello che il gioco ti chiede di fare, ecco. Capito. L'ordine lo scegli tu, mettiamola così. Quindi non ne sono rimasto entusiasta, però è sicuramente un gioco solido. Cioè, contante che io parto dal presupposto che a me Terra Mistica non piace, e so che sto per attirarmi le ire del 90% degli ascoltatori. Vabbè, poi sei lì, entriamo nella soggettività, nel senso che poi ognuno di noi ha le sue preferenze, ed è anche per quello che poi su blog ci scambiamo un po' la palla uno con l'altro, cioè sappiamo che lasciamo ad ognuno recensire ciò che rientra più nelle sue corde, ovviamente. Certo. Tra l'altro, colgo l'occasione per parlare anche di un titolo del quale non si parla molto, ma non per colpa nostra, è Railroad Revolution. Railroad Revolution è il nuovo gioco della coppia Canetta-Nicolini, e andiamo ancora sugli italiani, pubblicato dal What's Your Game, e praticamente soltanto adesso se ne parla, perché immagini praticamente non ce ne sono ancora in giro mentre registriamo, però anche questo sembra essere molto interessante. Io ho parlato con diciamo con gli autori, ci puntano molto, e sembra essere un titolo effettivamente interessante, un gestione azioni con tante idee carine. Aspetto di leggere il manuale, ma anche questo è nell'elenchino delle cose che in qualche modo aspetto. Parlando di questa coppia, forse quest'anno riescono a sbloccare Rain River Trade. Se... wow, sì, l'anno scorso l'ho già giocato. Cioè, io mi ricordo, l'ho giocato l'anno scorso a Essen ed era praticamente già pronto. È un gioco di concezione classica, se vogliamo, anche perché è già 2-3 anni che è in gestazione. E quindi, come dire, potrebbe arrivare alla fine con due titoli insieme. Eh sì. Anche da noi l'abbiamo provato un annetto fa, sì, forse addirittura prima di Essen sono venuti ospiti in Ludoteca Gagliatese, e niente, forse quest'anno riesce a vedere la luce, parrebbe. Bene, sono quei giochi che ci aspettano tanto, però se ricordiamo, cioè, no, non sempre è un male. Io mi ricordo l'anno di Village aveva bucato clamorosamente la sua Essen, sì, nel senso che era disponibile solo in demo, non era riuscita a stampare, e poi ebbe un successo clamoroso l'anno successivo, quindi non è detto che, come dire, prenderla lunga sia necessariamente un segno che il gioco non avrà successo. Perché poi, li conosco, sono molto simpatici, i migliori auguri per loro. Poi diciamo che quest'anno un gioco su tre sarà solo probabile, quindi... guarda, cioè, mi stai praticamente buttando un coltello dentro la piaga, lo stai girando e lo hai anche un attimino riscaldato, infuocato, perché cioè, la cosa che veramente io vado a essere nella logica che è una fiera bellissima, sono belle le giornate, mi diverto, giochiamo tutto il giorno, non ci sono rotture di scatole, eccetera, eccetera. Però, cioè, io la roba, cioè, se un gioco mi piace, voglio alzarmi e venire via col gioco sotto il braccio. Sì. Quindi l'idea di andare là e vedere un gioco che non è ancora pronto perché ci faranno Kickstarter l'anno prossimo, o è un gioco che è di 6 mesi fa e che finalmente arriva lì stampato perché è finito il Kickstarter, cioè, sono due cose che mi scentrano rispetto, come dire, alla logica di Essen, che è il posto dove per la prima volta vedi il gioco nuovo. Certo. Tutti d'accordo? Basta. Sì, sì, sì, sì, no, io già nell'altra puntata, se non ricordo male, mi ero espresso contro questa abitudine, ma non per altro, piuttosto perché il Kickstarter poi è un punto di domanda. Non è detto che arrivi al funding, non è detto che poi riesca ad uscire per problemi produttivi, potrebbero cambiare regole, potrebbero cambiare materiali, quindi almeno nell'ottica da recensione scomodo avere dei titoli che poi non puoi giocare a casa con più calma e valutarli bene, perché ricordiamo in realtà che già lì, almeno io parlo per me, ma credo che per voi sia la stessa cosa, provare il gioco ad Essen può essere molto più bello di quello che è in realtà, così come molto più brutto di quello che può essere in realtà. Tra un po' il problema lingua, il casino che c'è intorno ai tavoli, l'emozione, magari la compagnia che ti trascina, eccetera. Cioè, a me è capitato certi giochi provati a Essen che mi piacevano, che a casa poi hanno fallito miseramente, o viceversa, che ad Essen mi avevano lasciato così, qualcuno se li ha comprati lo stesso e ha meno male che l'ha fatto. Sì. Quindi. Vai, ma sai, poi Essen adesso un momento di, come dire, di elegia della cosa. Cioè, il bello di Essen è che tu vai là 4 giorni più o meno di full immersion, solo giochi. E già, cioè, già solo che, come dire, avessi la possibilità durante l'anno di prenderti 4 giorni e fare solo giochi, cioè già è una cosa, come dire, è già una vacanza. Poi ci aggiungi che è solo giochi nuovi. E poi tu sai che tu e quelli che vanno là siete, beh, non proprio due gatti, ma non proprio i due eletti, però tanti, siete fra tutte nel movimento quelli che per primi li vedono. E questo ti piace, cioè, ti Sì, esalta. che tra l'altro poi la dinamica è, per chi non è stato a Essen o magari può essere la sua prima volta, che tu vai, entri in fiera, giochi a bomba per tutte le ore in cui è aperta. Sì. Dopodiché esci, mentre ritorni in albergo, parli di giochi con i tuoi compari, esci dalla doccia, parli di giochi, a cena ci si decide cosa si gioca dopo cena e dopo cena si gioca ancora fino alla notte. Il mattino dopo ci si risveglia ed è così. Quindi sono 4 giorni in cui non solo si giochi ininterrottamente, ma proprio si discute di giochi in maniera. No, continuativa, ci si vive di Esatto. quello e ti dico solo che un'abitudine che stiamo prendendo è che giochiamo anche sull'aereo di ritorno. Ah, Cioè noi, noi siamo in auto, quindi ci è un po' più difficile giocare, però. no, sull'aereo infatti abbiamo sempre trovato dei giochini. L'anno scorso abbiamo fatto Oh My Goods sull'aereo. Luca. Due anni fa invece è Pfister quello dell'aereo, perché 2 anni, cioè, mi sembra 2 anni fa era Under the Caribic. No, 3 anni fa. Invece 2 anni fa c'era un gioco tipo sulla foresta di Sherwood, che è stato, infatti abbiamo praticamente quasi solo giocato sull'aereo. Però va anche detto un'altra cosa, secondo me, che è vera questa emozione. Sarà che a Torino magari c'è una comunità ludica più giocosa, ma io in realtà incontro mezza Torino quando vado ad Essen. Cioè, l'ultimo anno tutti chiudevi un attimo gli occhi e sentivi parlare in italiano. Sì, la sensazione ce l'avevo Cioè, gli anch'io. italiani a Essen. Ma sai cos'è? Che poi noi, cioè noi cominciamo adesso, nelle fiere si comincia a conoscere tanta gente. Per esempio, io cioè, a Essen mi incontro con Nero, tutti gli anni ci vediamo. Cioè, la comitiva, cioè, c'è Francesco Berardi, per esempio, c'è un altro ragazzo che si chiama Daniele. Cioè, la comitiva con cui giochi tutti gli anni praticamente è la solita, no? E quindi è come se tutto l'anno giocassi insieme. Invece li vedi solo un'occasione lì a Essen, perché magari sono uno sta all'estero, uno sta in Germania, quello sta addirittura fuori in Cina, cioè uno sta dai Canati, uno di qua, uno di là, te li vedi, ti vedi lì, è come se la settimana scorsa ti fossi lasciato, come era il gioco, l'ultima partita che abbiamo fatto, no? E la cosa carina è quella lì, che poi, cioè, vi allaccia anche le amicizie, insomma, tutte queste cose qua. È molto simpatico, un momento così di. Ritorniamo ai giochi. Dici. Torniamo ai giochi. Allora, Chris, è un po' che non ci dici nulla. Un titolo. Allora, Bam. ok, un titolo che in realtà io proverò, ma non so se comprerò, probabilmente diventerà uno di quelli forse che poi giocherò con altre persone che l'avranno comprato, è Ulm. Ok. In realtà conto di dare un'occhiata ai materiali, guardarmelo bene e seguire magari una mezz'ora di altri che giocano, perché io ad esempio ho questa fissa su Essen in cui non amo sedermi per 3 ore a un tavolo. Giro, quindi non lo giocherò la partita intera, però quello mi incuriosisce molto. Sì, sembra essere un gestionale classico col minigioco centrale di scelta, perché c'è una specie di piccola griglia nella quale. Cioè, c'è un giochino nella quale si infila una tessera e infilandola si scelgono le due azioni che si compiono in quel turno, no? È una cosa abbastanza, sembra simpatica. L'autore, tra l'altro, cos'è? Burkhard, se non erro, giusto? quindi è foglio impreparato sul nome dell'autore. Sì, confermo è, io. È okay. Lui, e quindi sì, è anche lui è uno di quelli solidi, perché comunque è uno di quelli che ha fatto diversi titoli di peso e interessanti. Quindi promette bene. Poi la Uhook è una casa, diciamo, che comunque produce cose di un discreto livello. Sì, sì, è solida. Diciamo che non dovrebbe uscire una monnezza. Esatto. In realtà volevo cogliere l'occasione per, parlando di Ulm, in realtà... Vi volevo dire che c'è la stessa dinamica della grigliettina 3x3, sì. In realtà spostata in maniera differente, perché in Ulm è comune a tutti i giocatori, al centro del tavolo, tu inserisci le tessere e si spostano per tutti, uh-huh. Ma il gioco Grandi Laghi della Placenza, che dovrebbe uscire, che ormai sono 2 anni che Danilo lo porta in giro a varie idee AG, eccetera, riprende molto questa dinamica, cioè... In Grandi Laghi ognuno ha questa plancettina 3x3 in cui selezionare le proprie azioni e andare a farla scorrere. Quindi non lo so, c'è questa concomitanza di giochi, a me incuriosisce per vedere quanto è simile e quanto è diversa la, diciamo, con un minigioco analogo la struttura poi del gioco. Tra l'altro la Placenza arriva con Kepler. Arriva con Kepler, sì. Ci dice qualcosa, sì. Ha finito il Kickstarter, sono riusciti a superare il founding, quindi sì. Bravi, anche perché diversi italiani si stanno cimentando su Kickstarter ultimamente, ma purtroppo non tutti con un successone, non è facile. Bisogna sapersi porre su Kickstarter. Cioè... Esatto, bisogna studiare la campagna, a volte anche farla iniziare e farla finire all'orario giusto può fare la differenza, può cambiare l'hype, può essere anche il tipo di gioco giusto, secondo me... Vabbè, poi chiudiamo la parentesi Kickstarter. Kepler ha fatto un po' fatica perché non era un gioco molto propenso... non so se si dice propenso agli stretch goal, cioè alla fine sì. Era un gioco talmente bilanciato, talmente finito, che non c'era da dire ti aggiungo il personaggio, ti metto la cosa in più, e quindi ha ingolosito poco quelli che poi cercano lo stretch goal, certo. E poi manca anche l'effetto chiamo i miei amici e li convinco a prenderlo, così sale il budget, cioè non è tutto questo incentivo a far passaparola se non c'è una volta arrivata la soglia di pubblicazione si è a posto. Chiaro, certi giochi sono più facili da spingere, altri, cioè in questo caso aggiungere materiali come nuovi pianeti, nuove cose, secondo me poteva rischiare di sbilanciare il gioco, cioè diventava poi un casino dopo. Comunque, però ce l'ha fatta, ha chiuso con 22.000 euro sui 18.000 previsti, tra l'altro due parole, c'è un progetto che si chiama Brides and Bribes, che è in, sì. Mentre parliamo è comunque sta per raggiungere il funding a sua volta, ed è anche quello un gestionale, come dire, sono quei generi che fanno un pochino più fatica su Kickstarter, chiaramente, perché non ci sono miniature, non ci sono Sì, quello è più incentrato proprio sull'interazione diretta. Io l'ho seguito già dalle prime fasi, quando il prototipo era quasi finito, diciamo, ho incontrato anche i ragazzi della Space Balloon. È un gioco che in realtà, secondo me, tra virgolette, paga il fatto che l'interazione diretta è altissima. Quindi tu pianifichi, ma in realtà non sei sicuro di ottenere quello che hai pianificato. E secondo me per qualcuno è frustrante. Cioè, se ti poni col giusto atteggiamento, è il bello del gioco. Ma se tu sei uno che ho pianificato un 2-3 e devo avere un 2-3, potresti anche far niente di queste tre. Ok. Allora, adesso underdog, cioè underdog per chi è, come dire, più pratico dei nostri amici americani, dei modi di dire, underdog è il modo, diciamo, il termine che si utilizza per identificare l'inatteso, no? L'inatteso che emerge, mm-hmm. L'underdog. Allora, quindi, la cosa che vi chiedo, secondo voi, qual è qualche titolo che, come dire, ha qualche possibilità di spuntare fuori, del quale non si sta parlando? Quindi, vi lascio prepararvi, e nel frattempo io, come dire, vi butto lì un paio di titoli, ok? Vediamo se... Uno, io c'ho Papa Paolo. Ok, sì. Ma no, sta scherzando, Papa Paolo non so se sarà poi tutto sto underdog, però è un titolo che attendo più che altro perché parla di pizze, costruzione di un sistema di pizze a domicilio fatto dagli olandesi. Quindi mi piaceva l'idea. L'ho citato per darvi il tempo... vai Teo? Ma guarda, io mi sono segnato, che trovo molto interessante, Gaz Hill 1874. Sì, sì. Clicker Spiele. Ed è un rifacimento di un gioco già di diversi anni fa. Sì, in realtà hanno cambiato un po' di cose. è uno di quei giochi che punta sulla meccanica di deduzione per eliminazione successiva, mettiamola sì. così, che a me è piaciuta molto in Tobago. È piaciuta quanto molto siamo fighi a usare questi termini. Visto, ho una proprietà di linguaggio superiore alla norma, d'altra parte. E quindi tu in questo gioco hai trovato dei progetti della vecchia Godzilla e devi cercare di ricostruirla. In che modo? Ti dice, la banca era sulla via principale vicino al saloon, il saloon era nella zona nord-est, tutto con queste cose tu man mano ottieni informazioni successive, vai a piazzare i tuoi edifici o vai a, diciamo, migliorare le posizioni di quelle degli avversari per fare punti te. Mi piace molto questa intersezione, ti dico, in Tobago mi è piaciuto in Café Mélange, e anche come tematica, come materiali, è molto carino, molto ben fatto in questa cittadina un po' del Far West, quindi io lo punto come il mio underdog. Ok, per quanto mi riguarda invece faccio un po' più il filosofo, nel senso che a parte che appunto io non me ne sono spulciati così tanto, ma se ti dicessi un gioco che è un underdog e secondo me fa successo, probabilmente non è un underdog, nel senso che okay. normalmente mi aspetto la sorpresa, mi aspetto di entrare in uno stand e vedo una roba che non gli pagherei 3 lire e poi ne esco fuori avendo comprato 4 copie per gli amici. Mi aspetto che succeda per qualcosa, spesso succede, ma lo vedrò sul momento probabilmente. Ok, allora io ti sostituisco, allora ti dico Sami è potenziale underdog, nel senso che il gioco è della Argentum Verlag. Argentum è una casa solida, ha prodotto tanti titoli che mi sono cari, per esempio Yunnan è un gran bel titolo, ma poi ha fatto anche, com'è quello, beh, adesso mi sfugge il nome, ma Ansa Teutonica, bravo, Ansa Teutonica, vedo che mi pensi, che è un titolone, quindi ha fatto diverse cose interessanti. C'è questo Sami, che è un titolo che uscirà quest'anno, non se ne sa ancora niente, non ci sono regole, non c'è nulla, e quindi è cioè, comunque un titolo che, come dire, per fiducia nei confronti della casa, so che sarà interessante. Così come l'Ansim Gluck non è un underdog vero e proprio, ma anche lì non se ne sa niente, quindi l'hype non c'è, l'hype è solo legata al fatto che l'Ansim Gluck normalmente fa cose come interessanti, e il titolo di quest'anno dell'Ansim Gluck è un titolo ancora a tema ferroviario, che sfrutta ancora, come dire, la scia di Russian Railroad con carte. Stessa cosa vorrei vedere Gluckauf, gioco di carte, che sembra essere, come dire, interessante. E un ultimo, vedi che io ti tiro fuori, ho della Spielworks, ho il gioco North American Railways, che è di Peter Sylvester, un gioco di carte, molto essenziale, costicchia perché la Spielworks ha dei prezzi abbastanza consistenti, fa delle tirature limitate, punta su quello, però è interessante perché è molto concettuale, molto con delle azioni, delle cose che sembrano molto matematiche, e sono veramente curioso di provarlo. Ma guarda, a questo punto posso aprire una categoria diversa di titoli. Vai. Ti butto lì due titoli velocemente di giochi che possono essere molto belli come molto brutti, nel okay. senso quelli che non riesco a valutare quanto poi funzionino, sì. e sono Colony e Fold It. Colony per sì. gamer, dello stesso sì. autore di Ludwig, che a me sì. è piaciuto un sacco. In sostanza, pool di dadi lanciati, man mano che prendi i dadi puoi attivare i tuoi edifici per concatenare le varie abilità e ottenere nuovi dadi, modificarli, fare punti, eccetera. Dico che sono perplesso perché non so quanto vai in paralisi per decidere l'ordine di attivazione delle cose. Cioè il tipico gioco che se attivi le cose in un ordine fai 2 punti, ma se le attivi in ordine diverso ne fai 40, la mia paura è che poi nel turno di ogni giocatore aspetti un quarto d'ora. Quindi, non so, sulla carta mi piace come dinamica, ma non so quanto poi sia giocabile in tempo reale. E l'altro invece di tutt'altra pasta è Fold It, della Happy Baobab. C'è una specie di tovaglietta quadrata con disegnati sopra 16 ingredienti, fronte e retro. Okay. Viene girata una carta ricetta e tu devi piegare questa tovaglietta in modo tale che siano visibili solamente i 4 ingredienti che servono per fare la ricetta. Ok. Anche qua, molto carino da vedersi come concetto, eccetera. Non so quanto poi riesci a ricordarti dove sono gli ingredienti, e quindi diventa solo un gioco di velocità e non di destrezza. Ecco. Però vediamo. Vediamo. Poi altri cinghialini, vado avanti con altri cinghialini. Terraforming Mars, se ne parla molto. La Fix Games è una casa svedese che è uscita qualche anno fa, non sei di quelle familiari, e questo Terraforming Mars sembra essere un gestionale ambientato su Marte. In America è nata la grande, l'ha fatto la Stone Gold, hanno polverizzato 300 copie che avevano alla Gen Con in niente, e quindi è nelle top dell'hype di quasi tutte le classifiche. Stessa cosa per Inis, che è un gioco della Matago, nel quale ci sono classiche cose esagonate dove ti muovi con delle miniature, eccetera. Anche quello sembra essere un titolo molto, molto atteso. Codename Pictures, cosa dite? A me personalmente non ispira, ma magari mi ricrederò. Cioè, nel senso che Codenames trovo fosse molto bello, fosse basato sulla parole, e questo incrocio per metterci dentro le immagini... Non lo so, non mi fa venire tantissima voglia di giocarlo, perché ce ne sono anche tanti di giochi in cui si cercano di dare indizi per immagini, quindi... Underdog. No, vediamo. Perché io penso che venderà un bordello, quindi la cosa più lontana è dell'underdog sulla faccia della terra, secondo me, però... No, ma paradossalmente lo diventa, cioè, te dici, doveva essere proprio una hit, per te non lo è, diventa il tuo underdog personale. Ma no, perché io penso che sarà una hit. Cioè, okay. Per scontato che sarà una hit, non mi interessa particolarmente, personalmente non mi interessa, mentre adoro Codenames, l'ho giocato tantissimo, lo trovo meraviglioso, geniale. E Cryavoc? Cryavoc lo googlo, perché sai che l'ho sentito, ma non gli sto dando una faccia. Allora, Cryavoc è praticamente punta a essere il nuovo Blood Rage di quest'anno, Portal, made in Portal, tante miniature... Addirittura le miniature sono fatte con le basette appiccicabili colorate esattamente come Blood Rage, giusto per non allontanarsi tanto da quello che è stato uno dei maggiori successi di quest'anno, di quella categoria. Mm-hmm. È anche questo un titolo del quale si parlava moltissimo, poi essendo già paradossalmente, quando se ne parla tanto poi scende un pochino. Ah, ok, sì, no, ok, ho capito, l'ho riconosciuto, ne avevo anche letto un po'. Secondo me non farà un grandissimo successo, quindi questo se fa un gran successo per me è un underdog, perché non me l'aspetterei proprio. Sì, io okay. Comunque posso dirti che sia Cryavoc che Terraforming Mars sono già stati preordinati, quindi arriveranno da noi, quindi mi capiterà di provarli, quindi non ho approfondito perché so che arriveranno qua comunque. Ok, poi andiamo a parlare un attimino ancora di italiani, Jokix? Perché anche Jokix tante volte cioè delle annate è partita con dei titoli tipo quello Historia, mi sembra. Sì, Historia. Che era partito già, ha avuto un grosso successo. Quest'anno parte un pochino più in sordina, ma presenta comunque anche lì un paio di titoli. Uno tra l'altro mi sembra che l'avevi provato anche abbastanza in anteprima, cos'è? Vampiri, Elfi, Cthulhu, sì, Zombie... Vampire, Elfi e Cthulhu, sì, che ha fatto la campagna Giochi Starter. Sì. In realtà è un gioco molto strano, cioè non riprende le solite dinamiche. In sostanza hai delle carte che puoi usare per fare le azioni del gioco che hanno forza in base alla collezione di simboli che hai preso durante la partita. Quindi, per esempio, ci sono delle carte che ti fanno pescare nuove carte. Se tu hai 5 di quelle carte, pescherai 5 carte anziché una, per darti l'idea, no, di come funziona. E quindi il tuo scopo è cercare di prendere più carte diverse fra loro per avere tutte le azioni. Ma più ne prendi di un tipo solo, fai meglio un'azione. Il fatto è che tutto poi si riassume in mandare 4 carte in una sorta di libro, l'idea di base è che si sta scrivendo una storia con questa tematica, e avere poi la maggioranza, diciamo, dei simboli scritti nel libro. Ecco, è molto particolare, cioè devi fare la prima partita, perché alla prima partita non riesci a capire come si vince, in sostanza, cioè giochi ma non riesci a avere l'obiettivo. La partita va a convergenza, dici ah ecco ho capito, e dalla seconda poi ti fai la tua. Poi invece di sempre la solita casa, sempre Jokix, di Quondam c'è Virus, che è un gioco che si svolge teoricamente, lo vedi sul tavolo, sembra tipo un dungeon crawler, però poi l'idea dovrebbe essere quella, insomma, di essere un po' diverso, con dei lanci dall'alto di cose, meccanismo di selezione strano, cioè lasci cadere dei cubetti dall'alto su una griglia e in base a quello determini. Vediamo come sarà, io l'ho visto un pochino solo sfuggendo delle partite di demo, quindi sono curioso di vedere come poi si presenta concretamente. Altre idee? Cosa mi dite? Beh, un titolo, ecco, che a me ispira molto e penso sia abbastanza ignorato, non ho idea in realtà, è Grimslingers. Un giochino strano, principalmente di carte, ambientazione, sembra una specie di western tecnologico futuristico, queste cose un po' particolari, peraltro sia cooperativo che competitive, mi ispira molto di più la parte cooperativa perché prevedono una serie di campagne collegate con scenari da 60-90 minuti, una cosa del genere. Mi piace moltissimo sia la parte come l'hanno reso esteticamente nel suo minimal, sia alcuni escamotage molto carini, cioè il fatto che personaggi aiutanti eccetera abbiano questo effetto di carte sovrapposte che man mano che scorrono scoprono varie abilità o vari livelli, usato per più cose diverse, che in realtà gli dà un effetto abbastanza bello, secondo me è particolare, buttateci un occhio perché quello vorrò provarlo e penso non costerà neanche tanto così a pelle, no, e me lo porterò a casa. Dici come si chiama e di che casa è? Grimslingers, cioè come Gunslinger, pistolero, ma con Grim al posto di Gun. La casa, aspetta, lo devo googlare per dirti la casa, perché io su queste parti tecniche... Aspetta un attimo... Tra l'altro sarebbe del 2015, teoricamente, beh, te lo dico io, della Grim. Ah, ok, perché non l'avevo scoperto, però non avevo guardato la data, pensavo fosse più recente. Vabbè, no, cioè... no, vabbè, non vorrei mica essere, anche perché tanti titoli dello scorso anno poi spuntano mano a mano, arrivano fino a essere, come Arboretum, del quale abbiamo dialogato io e Teo, perché... Sì. Da noi è un gioco, cioè un gioco di carte con un mazzo di carte contenuto, mi sembra 60-80 carte, adesso non mi ricordo più, forse 80 carte. Sì, perché sono tipo 5 colori per 13 carte, una roba simile, sì. No, è il contrario, mi sembra sono da 1 a 8, sono numerati da 1 a 8 e 10 tipi diversi di alberi, quindi 80. Sì, è vero, sì, hai ragione tu. Ecco, e niente, la cosa particolare è che è un gioco di carte di collezione set, quindi sembra una sciocchezza. E poi in realtà c'è tutta una struttura sopra, perché queste carte curiosamente le piazzi sul tavolo e le piazzi davanti a te formando una sorta di piazzamento tessere alla Carcassonne, tipo un piccolo mondo, e devi stare attento nel piazzarle a fare delle sequenze di numeri di un certo tipo e di colori. Nello stesso tempo c'è tutto un meccanismo particolare legato alle maggioranze a fine partita, eccetera. Quindi da un giochino di carte che sembra facile esce fuori una cosa che è un bruciacervelli. Da noi è stato una hit clamorosa, da te un po' meno. Sì, esatto, ci siamo proprio confrontati recentemente su questo titolo. Da noi è stato un flop, l'abbiamo provato in 2, 3, 4 giocatori e non siamo mai riusciti a trovare la quadra del gioco, ma principalmente per il modo di fare i punti finale, che semplicemente dice... se tu in mano hai avanzato carte che fanno somma maggioranza di un certo colore, puoi fare lo scoring di quel colore in tavola. Quindi ti capitano volte che hai la maggioranza di quel colore ma non hai messo in tavola niente di quel colore, o viceversa, che hai in tavola una bellissima roba e non hai tenuto le carte perché un altro se ne è tenuto una e ti ha battuto. Perché sei un pistola. Esatto. Cioè, il fatto che cercare di fare il conto durante la partita ci ha sempre devastato. Non lo so, l'abbiamo trovato troppo pesante questo gioco. Guarda, noi l'abbiamo scoperto da poco e siamo già a 10 partite. E addirittura l'ho proposto praticamente... a quasi chiunque, addirittura mi ricordo a Ferragosto l'ho portato a della gente che non aveva giocato praticamente a nulla, e siccome sono delle persone che ci si vede ogni tot mesi, mi ha detto a Natale rifacciamo il torneo di Arboretum. Quindi questo per dirti quanto ha colpito. Tra l'altro sarà rieditato dall'Abacus, se non erro, e quindi avrà anche un'edizione, perché prima era un'edizione molto limitata della Z-Man e della filosofia, adesso sarà editata anche lì, quindi vuol dire che un suo successo l'ha avuto. Vediamo con il tempo se avrà avuto ragione te o io, o forse tutte e due, nel senso che sì, cioè... come è classico. Vi segnalo anche i giochi della Lautapelli, perché Lautapelli è una casa che è famosa per Nations, ultimamente gli ultimi titoli che non è che abbiano avuto la stessa ecco, no? Da e quest'anno ha fatto super successo Perfect Alibi, era l'Autopelit, basato sul concetto di Sleuth come gioco. Ok. Tutti via domande. Scusa, ti ho interrotto. No, scherzi, ma anzi, dici pure, perché questo Perfect Alibi, cioè, l'ho visto, però non è che non pensavo che avesse avuto un successone, quindi vuol dire che lo recupero, che mi manca. E invece i giochi di quest'anno sono un gioco di carte che si chiama Honshu, che è un gioco di carte che a me interessa molto, forse potrebbe interessare anche a te, Christian, perché c'è un concetto di piazzamento, cioè la carta è divisa in quadratini, questa volta sono da 4 a 6, e te la piazzi davanti e a sua volta vai a formare dei piccoli reami. Il principio mi ricorda molto Hanging Gardens, che è uno dei giochi poco conosciuti che mi piacciono tantissimo, e quindi quello lo guardo con particolare attenzione. E poi fanno anche sento il plipipì della tastiera che sì, stavo guardando cercare. Cosa mi stavi suggerendo. E poi abbiamo Docmus, che è, a me piacciono questi titoli un po' così, è un gioco dove semplicemente al tuo turno piazzi tre casine, una, due, tre attaccate, su un tabellone modulare composto, cioè quadrettato. La cosa carina è che nel corso della partita, cioè che il tabellone diviso c'ha dei territori di vario tipo e quindi ci sono delle regole per il collegamento, non è che lo piazzi solo uno a fianco all'altro. Mm-hmm. Ricorda l'idea a vederla molto molto da lontano, come cavolo si chiama, quello della Queen Games che ha vinto a Kingdom Builder, però senza le carte obiettivo, e la cosa più carina è che ci sono poi delle azioni che tipo mano a mano nel corso della partita giri una delle nove tessere che compongono il tutto. Vabbè, molto astratoso, ma carino come componenti e tutto, mi ricorda tipo anche Taluva, queste cose un po' così particolari, e quindi niente, lo segnalo, butto lì, anche Underdog. Vai Chris o Teo, ci avviamo verso la fine, tanto. Sì, io non ho... Ah no, ecco, aggiungo una cosa. Io invece un gioco che non penso che comprerò perché ha un target probabilmente molto più basso di età di quello che può essere utile, ma voglio provare a costo della vita High School, quelli in cui schiccheri i pinguini in mezzo alle scatole. Oh, sì! Sì, cioè, lo desidero da morire. Cioè, facciamo un torneo se vuoi, Teo. Sì, non lo comprerò, ma lo voglio giocare. Sì. Ma guarda, questa idea che apri la scatola e dentro c'è una scatola con una scatola con una scatola, poi le agganci tutte e le metti in su e poi passano da una all'altra. Sono dei pinguini, ma poi possono anche saltare quei pinguini. Sì, cioè... li fai prendere le rampe, poi giochi a. Allora, vi dico subito per chi ascolta, l'abbiamo persi. il gioco si chiama High School, che è ICE come ghiaccio, ice in inglese, e cool come tosto. Esatto, e nota che fa il gioco di parole invece con High School, scuola superiore, perché esatto. In realtà è un liceo di pinguini. Esatto, quindi lui ci ha dato anche la nota, come dire, culturale, linguistica. Il concetto è che il materiale principale è composto, come ha detto, la scatola, cioè ci sono diverse scatole che si assemblano, e siccome ci sono delle piccole porticine si crea una specie di percorso usando le scatole, e il materiale essenziale sono questi pinguinetti che stanno sempre in piedi. Io mi ricordo cos'erano, dei personaggini di Guerre Stellari che davano alla Esselunga. I Rollins, esatto. Conosco persone che li hanno collezionati, e per persone non intendo bambini. Bravo. Allora, siccome io cosa ho fatto, appena ho visto il gioco High School, ho capito com'è il meccanismo e ho preso con mio figlio la collezione di Rollins. Uh-huh. E ho cominciato a giocare con questi cosini qua. Quindi se uno vuole intanto esercitarsi in vista di High School, può prendere i Rollins. Ok, vi abbiamo informato. L'idea è un po' quella, cioè prendere i Rollins e farci un gioco da tavolo, e avete High School. Probabilmente lo compreremo in tanti, ho già capito. Probabile. Sì, ti dico, io, cioè, mi sto dicendo non lo compro, perché appunto lo compro tanto per un gioco che secondo me è difficile rimettere in tavola tante volte, cioè ha sicuramente il fascino della prima partita, ma poi, boh, però, non lo so, dopo averlo provato. Però poi quando vai senti, siedi, lo provi, cosa no, ma infatti, cioè, vai, dipende quanto mi divertirò giocando la prima volta. Ma chi voglio prendere in giro? Va bene, ultime cose. Guarda, visto che parliamo di Dexterity, posso proporre Junk Art. Sì, in realtà, ne ho visto che ne parlavano. Sì, dici. Guarda, questo gioco contiene nella scatola un sacco di pezzi di varie forme, quindi dai tipici parallelepipedi a tipo bicchierozzi o cose simili, per darvi l'idea. E lo scopo principale, diciamo, è impilarli uno sull'altro, ciascuno i suoi. La cosa che rende la partita interessante è che bisogna fare una specie di tournée in varie città, e in ogni città c'è una regola diversa per cui si vince o si è eliminati. Ad esempio, in una è la torre più alta, in un'altra la torre con più oggetti sopra che non cadono, in un'altra la torre che viene, in cui vengono utilizzati sempre gli stessi tipi di oggetto, in un'altra bisogna cercare di stare il più storti possibile, quindi... Questa dinamica qua, diciamo, nel mio immaginario potrebbe affiancarsi bene a Riff Raff, che adesso è nel mio punto più alto dei giochi di destrezza, ecco. Ok, ottimo, ottima idea. Quindi giochi con bei componenti da proporre un po' a tutti, anche, sì, anche introduttivi. Comunque di carrellate ne abbiamo fatte, cioè di roba, sì, in queste due puntate ne abbiamo nominata tanta, eh. Ci abbiamo lasciato probabilmente fuori chissà quante cose, ci scusiamo anche con eventuali amici che hanno ideato queste cose che abbiamo dimenticato, o con tutti in sostanza, però d'altra parte quando sei così un po' di volo è chiaro che non ti puoi ricordare tutto. Ultimo pensierino prima di chiudere, perché si va a Essen? Io posso dire che si va ad Essen non per risparmiare soldi. Questa è, voglio sfatare questa leggenda metropolitana, perché se è vero che ad Essen ci sono un sacco di offerte, non lo nego, tanti giochi li trovate a pochissimo prezzo, magari anche quelli vecchi, cioè io ho preso un Heimlich & Co. a 5 euro per dire, ma in realtà se fate veramente il conto netto di quanto spendete di albergo, di viaggio, di cibo, di tutto quanto, in realtà non riuscirete a risparmiare davvero. A Essen si va per giocare, secondo me. Lo scopo numero uno deve essere giocare, piuttosto ti fai poi un elenchino e te li compri man mano durante l'anno, per evitare anche l'effetto pernicioso che torni a casa e io ho amici che ancora hanno giochi incelofanati da Essen dell'anno scorso. A proposito, bravo, un temone, questa qua è una puntata. Quanti giochi incelofanati hai ancora a casa, mai provati? Zerissimo. Bravissimo, anch'io zerissimo. E Chris, pecora nera? Ne ho due, che però è accettabile. No, accettabilissimo, siamo dei ganzissimi, c'ho degli amici che sono tipo a 50. No, ma poi io, cioè, se non li gioco un po', non ne compro di nuovi, quindi, cioè, io in realtà nella mia collezione ne ho pochissimi di giochi, cioè, noi sfruttiamo moltissimo il fatto della ludoteca che ci girano tutti i titoli, noi l'anno scorso abbiamo portato a casa qualcosa come 300 titoli diversi da Essen, cavolo, pur avendone comprati una decina, dozzina a testa. Sì. A proposito, a quanto sei di giochi diversi fatti quest'anno, caro? Non te lo dico perché sennò diventa una gara. Cioè, perché l'anno scorso... perché non l'hai mai stata, vero? Guarda, però così magari butto lì che adesso sto aprendo Board Game Geek, vado un attimo a vedere, intanto che dice Chris la sua considerazione. su Essen? Su Essen, quello sì, che ti pare, cioè sono gli ultimi secondi che hai. Secondo me Essen, io ci vado, al di là di altri ovvi motivi, ci vado principalmente perché è un evento, cioè è veramente una cosa particolare vedere queste gigantesche hall piene di persone che giocano. Mi piace tra l'altro molto, come succede a volte nelle ludoteche, ma Essen si percepisce di più, questi tavoli in cui... hai dentro 30.000 persone appassionate della stessa cosa, con tavoli in cui hai quelli di 17 anni con quelli di 65 che giocano assieme. È veramente bella. Ok. Nel frattempo sei arrivata col numero? Sì, 159 diversi. No, so solo una 35ina di numeri, di più di te. Vedi che poi ti parte questa gara, non vale. No, vabbè, ma quest'anno l'ho presa molto più light, eh. Anche sì, perché sì, non mi dicevi sempre quanti ce ne avevi, quindi... Esatto, dobbiamo autolimitarci. Vabbè, anche no. Ok, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine. Mi sembra che mano a mano stiamo prendendo il via. Adesso, cosa diciamo ai nostri ascoltatori? Ci sarà o non ci sarà poi una stagione regolare di giochi sul nostro podcast 2016-2017? Ah, oh, sì, dai. Può essere. Che ce lo dicano loro se la vogliono. Ecco, sì, cioè può essere anche un'idea, cioè, però l'unica cosa pazzesca sarebbe che noi mettiamo online le cose, adesso stiamo invitando tutti a dirci se vogliono che andiamo avanti, nessuno ci dice niente e abbiamo deciso. Vabbè, esatto, è già un verdetto, insomma. Acch, ci stiamo mettendo in gioco alla grande. Ok, niente, però anche se ci dicono di sì, poi vediamo un pochino come organizzarci. Come vi dicevo, tra l'altro, vediamo se organizzarci, come dire, portare avanti solo questa esperienza, o se invece magari anche, come dire, portare insieme l'esperienza dell'altro podcast col quale stiamo avendo contatti ultimamente. Comunque poi vi terremo informati sul blog degli sviluppi. Per adesso spero che queste due puntate più o meno one shot pre-Essen vi siano piaciute, vi abbiano dato degli spunti, e magari nei commenti lasciateci anche indicazione di qualche titolo che colpevolmente abbiamo dimenticato. Un saluto a tutti da Fabio, Christian, e ciao e alla prossima da Teo. Ciao ciao ciao. Dai, mi sembra che